1, 2, 3. Chi c'è sul 10 in ascolto? 10. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto, cambio. Canale 10, per un controllo. Chi c'è l'ascolto, cambio? Prova, 1, 2, 3, prova. Eccolo qua. CQ canale 10 per prova radio. Prova 1, 2, 3, test, prova CQ 10. Avanti su 10. Non arriva voce qua. CQ canale 10. E avanti su 10. Avanti su 10. Avanti. Prima io, avanti, chi sei, Emanuele? Ciao Antonio Zogo. Ah, ciao Antonio, buonasera Gianfranco. Buonasera Gianfranco, buonasera anche a te. Mamma mia, c'ho un rumoraccio, c'ho, cavolo. Tu chissà chi marazzolti è. Ma dove, in ricezione o in trasmissione? Ricezione. Anch'io sui canali alti c'ho una specie di ticchettio, fa tac, ininterrotto, su tutti gli apparati, ma non male solo su un paio di canali. Ma no, io non penso la gara vicina, sento questo rumore strano. Capita, qualche cosa di elettrico, se sei da solo prova a attaccare diciamo la corrente, vedere un po', sempre che puoi alimentare tramite, se c'è la cosa di separata, l'impianto separato, e vedi un po'. Allora, c'è qualcosa proprio qua che mi sta rompendo, magari se uno più basso non lo sento, proprio sul 10 sta ribattendo. No, qua, aspetta perché sono chiuso, com'era? Questo controllo se lo sento io. Già fa. Luia, tutto a posto? Per modo di dire, c'è troppo caldo, sto sudando come una fontana, porca la miseria, tornato di nuovo, dice che la prossima settimana sarà lo stesso, boh. Cioè stiamo andando da temperatura bassa a temperatura calda, Ma qua la finestra è aperta e sta entrando un pochettino di aria fresca, meno male, capo non se ne butta più. Ma è sempre forte questa cosa, porca la miseria. Ascolta, ti devo chiedere, nella radio come la senti? Troppo forte, troppo debole? No, perché vedo che i picchi mi sembrano esagerati, perché sto provando un apparato e sto cercando un po' di metterle i parametri giusti. Ma a me mi sembra abbastanza normale, non sento tutto questo, cioè una radio normale, né troppo alta né troppo bassa, secondo il mio parere. Sì, l'importante è che non ci siano rumoracci al di sotto. No, negativo, nessun rumoraccio. Ok, meglio così, va bene, ripasso un attimino che sto leggendo il manuale, che è tutto in inglese, è un casino. Ok, cappa, dai. E io mi dedico a fare qualcosa qua. Ok, dai, ce la risentiamo. Ok, comunque rimango in ascolto qua. così quando ho finito faccio un'altra chiamata, vediamo un po' se riesco a metterci mano su questo attrezzo. Sì, un po' gareggio così, magari. O è qualche TV che mi sta disturbando, o è qualche maledizione di apparecchio di internet che ogni tanto mi disturba il canale. Adesso c'ho il QRM a 9. Ma in che zona sei? È in zona Corsovico. Potrebbe essere benissimo, perché anche io ho il dubbio che, questo rumore pulsante che c'è su alcuni canali sia proprio un access point difettoso, però io sono in campagna, quindi poco ci sto a trovarlo. Tu invece sei una zona abitata, c'è molta gente magari il tuo vicino che ce l'ha, quindi è un macello quando è così. Sì, capa, se mi rompe di se balla l'attacco lineare, vabbè, se ne finisce. E cosa le fai? Se quello è un access point e sui 2 giga e 4, cosa le fai? Non le fai un tubo? Puoi attaccare tutto lo lineare che vuoi. È un distubolo armonico che si sviluppa da varie parti. E un Alghero, figurati, è un apparato amatoriale, c'ha tutto l'HF e tutto con QRM a 9. Dopo di tanto sono riusciti a capire cos'era, era un coso di lì della Linkem che era difettoso, andava in autooscillazione, che le provocava tutto questo casino, ed era di un vicino che era di fronte, ma c'è voluto, perché quello lavorava a 3 giga, quindi figurati. Innanto la gubicciuria, quella parte della Linkem, ho paura che a certe ore sia quello lì. Può darsi, potrebbe essere, solo che ci vogliono gli strumenti per vederlo, capito? Di lì era intervenuta anche la radio per vedere un po', perché adesso non è possibile utilizzare il solo HF con un segnale di questi livelli. Hanno controllato e hanno trovato che era questo apparecchio, e quindi le hanno intimato di farlo sostituire, perché a volte l'apparecchio difettoso capita. Hanno cambiato l'antenna e tutto si è risolto, capito? Gli mi dice, balle, cazzo, altro sopra, cazzo, di chiuda, un colpo di tubo, di chiuda, vedi se si chiuda. Ma richiedi qualche condomino? Sì, ma ogni tanto lo fai, non lo fa sempre. C'è qualcuno che chiama sotto, avanti, che chiama? Aspetta, perché io ti sento proprio al limite. Antonio, lo senti? Sono entrato? Negativo, non lo sento perché c'ho questo rumoraccio. Andiamo bene, siamo messi bene. Io ti sento molto molto basso, non so dove ti trovi, chi sei? Gianfranco in compagnia d'Antonio, da Sassari, avanti. Ciao Monserrato da Pattada, ben ascoltato. Sì, riesco a capirti bene fortunatamente perché c'è poco QRM. Però non ti posso dare un rapporto perché sto provando un apparecchio. Con questa storia di questi smettere a LED non si vede un tubo, capito? Sono numeri piccolissimi, quindi un po' macello, capito? Prova a rivenire avanti, vediamo un po'. Lui a me mi sente. Adesso ti... Scusa, puoi ripetere, hai detto come mi senti? 3 più 3. Ok, quindi la radio è troppo bassa forse, o troppo alta, non lo so come dirai. Volevo sentire avanti un altro amico che c'è qua a Sassari, mi dice se lo senti. Avanti Antonio, per l'amico di Pattada. Cappa, salutoni l'amico di Pattada, anche se io non ti sento, oltre perché c'ho questo QRM così alto. Salutone ben sentito, non so se mi senti Antonio Bombolo da Sassari. Pattada, l'hai sentito Antonio? No, negativo, non ti ascolta. Ok, come radio ti sento bene, devo dire, però qua non c'è segnale praticamente. Vediamo un po' se riesco a metterti un commentare al brand. Aspetta un po', ecco, vediamo un po'. Vieni avanti, patata. Guarda, IS1, questo mi dà questo palazzo e questo ti dico. Che ha calcolato il segnale. E niente, la parola io ripeto, è più che comprensibile. Bombolo, patata non ti sente, non ti sente. Io sto arrivando 3 su 3, quindi figurati, bassissimo. Anche io sto andando molto basso come potenza, perché lo devo ancora regolare questo apparecchio. Provo a vedere adesso, patata, se mi senti, K. Patata, hai sentito adesso, bombolo? Sì, che non è dietro l'angolo, patata. Infatti non è dietro l'angolo. Oh, Claudio, poi mi dici come sta andando, che è arrivato l'apparecchio che ti dicevo, e sto cercando di capirci qualcosa, perché già lo sai come sono questi. Oi, sono dolori. Tu ci arrivi senza problemi, Claudio, quindi riprendi. No, non ci arrivo a portare io. Mi sarei arrivato a qualche bombolo, Monserrato, ciao Monserrato, buonasera, ben ascoltato. Santiago Nova Radio 5, qua a Sassari. No, stavo, ciao Anto, stavo eliminando quel fruscio qua, capite? Ciao Monserrato, buonasera, ben ascoltato. 5-9 Sassari, ben ascoltato, avanti. Capo, dai, mi allontano un attimo, ci risentiamo dopo. Ehi, vabbè, diversa posizione abbiamo, non ho avversari per quelle zone, quindi no. Il 9-5 che mi dai tu è contraccambiato, sì, a livello di Sassari, perciò non ci sono problemi. Santiago 9 per te. Ok, non ti chiedo manco la radio, perché sono in cuffie ed è perfettamente a posto. No, ho invertito praticamente il, siccome ho fatto dei cambiamenti, Gianfra, quel fruscio che sentivi, quel tipo innesco, ho fatto dei cambiamenti, avevo spostato il 4.30 col 4.40, l'avevo invertito, invece evidentemente c'è qualche punto dove c'è qualche rientro di RF con tutte le radio che ho, e allora l'ho rimesso davvero, dai. Va bene, comunque l'importante è che lo senti a Gianfranco Monserrato, non c'è problema, lui ha un'altra posizione diversa dalla mia, perciò non fa testo. Ok, io ho un patato a piedi, quelle zone lì sono sempre oltre il 9. Come siete voi, naturalmente, arrivate fortissimi qua. Avanti Gianfranco, riprendi 5 minuti, poi io però vi lascio perché c'è un casino qua, che stavo appunto facendo queste modifiche. Sì, sì, ho capito, Claudio. Poi mi dici però come questa radio, perché ripeto, la sto settando e non so, anche se c'è il coso d'analisi, però non mi fido granché, capito? Non riesco a capire se è bassa, se è alta, se è media, o se perlomeno è chiara, ecco, tutto lì. Riprendi patata, vediamo un po' com'è la... ho capito, il segnale è 3, mi confermi il mio? Ok, vai Claudio, dimmi un po' allora com'è sta cosa. Sì, Santiago, sei 9 più 30 Gianfra, più alto del solito, però è roba mia, dai, ho spostato un po' l'antenna, adesso faccio lavori sul tetto, quindi... Sicuramente ti ricevo molto, molto meglio così in questa posizione. 9 più 30 e la radio 5 è perfetta, per me il settaggio va bene, non so che cosa intendi per settaggio, però le modalità ci sono, medio bassi, medio alti, la chiarezza, la c'è tutto, quindi non so che cosa devi settare ancora, avanti. No, sto cercando la regolazione ACC, capito? È importante perché se commuto sul sistema di diciamo digitale, guarda, te lo faccio anche sentire, guarda. Senti, si inserisce un tono che non ci dovrebbe essere, quindi stavo cercando quel settaggio per diminuire il livello di lì sulla CC. Tutto lì, riprendi patata. Vabbè, ma qua è una cosa un po' complicata, perché non è, è una cosa un po' grande. Riprendi Claudio, io mi devo un attimino allontanare, perché devo cercare l'alto manuale di servizio, vediamo un po' come si mette, perché se attacco col fischio poi è un casino, capite? Oh, Claudio, forse si è allontanato, Claudio. Oh. Ok, patata, io mi devo un attimino allontanare, eventualmente riprendo dopo quando ho finito, diciamo, con questo apparecchio, perché anch'io ho tutto il mezzo ai piedi e devo un pochettino fare in ordine. Mi piacerebbe averti ascoltato, magari se ci sei più tardi ci sentiamo. Buona serata per adesso. Dai, anch'io volevo lasciare Monserrat, che ci sentiamo dopo, perché sto mettendo a posto qua, se no non metto a piedi, ok? Che ho fatto gli spostamenti e ciò delle radio in terra, sia che si graffiano. Ci sentiamo dopo comunque, ok? Ciao anche a Gianfranco. Sì, a dopo Claudio, poi ti dico cosa sto facendo, ecco. Anzi, eventualmente facciamo anche una prova. A dopo. Ok, dai, ci aggiorniamo dopo, ok? Ciao Monserrat, a più tardi. Ciao altrettanto anche a te, dai. Avanti. Avanti. Sto facendo la pasta e quindi sono in cucina, dai, sto aspettando a bolla l'acqua. Quando deve bollire non bolle mai, quando invece deve scuocere la pasta scuocia subito. Giusto? Sì. Ma troppo nell'elugoso, come si dice, ma troppo il regolatore, verrà che bolle. Via. Hai visto anche questa porca miseria, che giornata calda, porca miseria. Cappa, ma se te ne tu che sa fare, va. Cazzo che pumpendi, no? Che... Pumpendi. Hola, hola. E perché vai negativo? Interessante. L'amperometro dell'alimentatore va negativo quando fischio. Cosa può sì? Meglio non saperlo. Non è niente, così. Per stazionare e basta, ce li hai. Sì, uno e uno. Uno e uno. Uno e due sul 40, dai, cominciano a essere uno e due. Ma non sono nulla, capito? Tanto. Mettere un pentolino d'acqua e mi fai bollire e stazionare, vedrai che si abbassano. Buonasera a tutti, Buonasera. Lo devo mettere? Buonasera, buonasera. Ah, Manuel, sale lo devo mettere lo stesso con le stazionarie? Sì, appena appena, non troppo, se no aumentano, Buonasera a tutti e due comunque, dai. Vai Marco. Sì, ya. Buonasera Manuel, un'altra serata in paranoia per colpa mia, che non... Vabbè, anche quando mi chiedono di uscire ieri sera, nulla, oggi nulla, non ne voglia io, sono spallato. Non a Giugana, dove vai? Sempre a pigliarti il caffè? Se dove vai a Sassari? Solo bar ci sono, porca miseria. E a me di stare al bivacco e bar non mi piace, non mi piace niente. Qui sono bar, circoli, saragiocchi, bogatina. Sì, poi conta che io alcolici non è che ne possa bere, non ne bevo. Ogni tanto un limoncino, sì, dopo pranzo, però io al bar bevo solo caffetteria, Manuè. Non sono abituato, non mi piace abituarmi, perché i motivi te li spiegherò mi si è parata a sede, dai. Sì, ho capito, dai. Ma tu c'è l'età mia, Marco? 49 compiuti, tutti lampadi allogomodo, sono dal 71 io. Quindi sei un anno più grande di me, dai, sei un anno più grande di me. No, io credo fossi più giovane tu anche, mio Emanuele, tipo 35-40 anni. Magari, 40 anni, 35, cazzo, quasi già 48 Marco, andiamo in pace, ma neanche me ne accorgo io. Scappa. Oh, Manuè. Dimmi, Arco. Hai sentito l'hai che è morto? Sì, oggi c'erano i funerali. Ah, oggi erano i funerali, pensavo che... Oie, poverino, cazzo. Gli è venuto un infarto, 55 anni ci aveva. Ma CB? No, non penso, CB era tu, non penso. No, negativo, non lo, perlomeno io ho forse in anni passati, non l'ho mai sentito io. Ah vabbè, no, credo fuori fosse qualche CB. Comunque, toccatevi le balle per sicurezza. Adesso vi ho parlato. Sì, guardate Valetta, tocchi le palle, non tocchi, Marco. Quando è da arrivare, quando bussa, è quello lì, non palle, quando va a venire viene. E non dà preavviso, caspita, certe volte non ne dà preavviso, arriva, manco tempo di fare testamento, o di regolarizzare le cose, che ne so io. Oh signore, riprendete che tengo d'occhio l'acqua, è da salare adesso, dai riprendete voi, vai Anto. A chi usare non ve lo bolle prima? No, quando bolle lo metto quando bolle, quando è bella calda. E poi appena, sai, se ne scende un po' l'acqua, poi appena inizia a bollire, butto la pasta. Ma abitudine mia, mi. Fissazioni, dai, abitudine, tanto. Ma che era buono prima, o che era buono, la buona non cambia niente. Non fa niente, sempre già ritelle, vabbè. Che cappa. Emanuele, a me mi hanno detto che era più grande, però, No, 55 anni, io sapevo che c'aveva 55 anni, poi non lo so, cioè aveva avuto qualche anno in più. Povaraccio già, era una brava persona, era cavolo, io lo conoscevo tanti anni, e abbiamo fatto anche un campeggio, una volta siamo andati in un posto dove si stava tutti insieme con le famiglie, dai. Avevo goduto la garra in pari, puro. Cazzo di ala. E tu sei più piccolo, Anto. Sei più piccolo di me. Io ho già 35 anni. E tu, sì, sei più piccolo di me. Beh, io sono giovane. Ma modulo da tanti anni, però, da quando ero ragazzino. Anche io. Modulavo da tanti anni, minimo allora, a contare ci sarò, siano quasi 30 anni di frequenza. Io una ventina d'anni, sì. Però prima, quando ero più minorenne, modulavo la cua, capito? Vabbè, dai, le abbiamo passate tutte. Quando te la piazza una bella antenna, tu? Quando va giuridina? Cazzo, tocca poco l'antenna. Lo so, però adesso ce la pensare alla casa. La paghiamo un poco di buffi, ma perché non va bene questa? Non sto arrivando bene di date, dopo. Sì, arrivi bene, solo però quelle lì sono antenne solo nei paesi, capito? Secondo dove sono, tu non senti niente, c'è poca ricezione con l'antenna lì, capito? Sì, vabbè, per adesso mi devo accontentare così, finché va, e poi faccio il lavoro e mi metto l'antenna grande. Sto pensando a mettermi la Venom, sto pensando a mettermi qualcosa del genere. La Venom? E che antenna è? La Sigma. Sigma Eurocom però, non è la Sigma nostra. Ecco fatto, buttata la pasta. Allora, Anto, questa Venom, come spiegartela in breve? C'è la 5 ottavi e, la Mantova, diciamo la numero 1, no? La serie delle Mantova. Già la mia, sì, è più sottile di sezione, più economica, cioè la mia è già più economica, però va bene, come la BA27L, ve la ricordate? Quella che esiste da 30-35 anni, no? Va benino. Però questa Venom ho paura che sia fatta troppo in economia. Cioè, 38 euro mi, più la spedizione che sarà 7,90 euro, fai 8 euro. Chi è? Ah no, non è a me il pesce. È Claudio, eh. Però aspetta, non ho capito se ha chiamato... No, non sta salutando noi sul 10 però. No, no, era su in Piemera, va per Luca. Oh, lo sai che... Allora basso, lo sai che in tutta l'estate mi hanno appunto pochissimo le zanzare, adesso che sta venendo l'umidità di notte mi sono ammazzendi, mi hanno appunto alle gambe, alle braccia, al viso, in altri posti anche. In certi posti, anche oggi, era pieno di pappattacci, mi erano rimanenti. Capa, ti stavo dicendo che mi vorrei mettere quella lì, mi vorrei mettere questa Venom, ma secondo me è buona, è anche facile da installare. Guarda, secondo me, vedendo un po' come è costruita, è l'equivalente 5 ottavi della Ringo, quella Ringo della Lemme che vende Fusaro, mia, 38-39 euro. Cioè, ho paura che sia... Cioè c'ha dei radiali ridicoli, non c'ha piano di massa, poi magari è costruita così, e poi è lunga, 5,80 m, lo sai, non è neanche 6,5 m come le altre 5 ottavi o giù di lì, e l'hanno fatta un po' più corta, un po' più caricata, per unire gli stili alle fascette. Premetto che sono fascette quelle da dredici, no, di ferraccio zincato. Sarebbe meglio sostituirle per un'installazione definitiva con le fascette in acciaio inox che vende Brickoman. Così avevo fatto per la Ringo. Però lì, cioè, sono durate più le fascette dell'antenna, mi poi che baraoli. Vai Daniele, va Manuele. Vendo Mantova Turbo, 100 euro, di seconda mano, nuovissima. Senti tanto, guarda che non le trovi più le Mantova italiane, non le trovi più, né la 1, né la 5, né la Turbo, Mantova non se ne trovano più. Quelle Sigma Eurocom sono, queste Venom sono antenne, diciamo, come dire, la coppia della coppia è mi, pochi barauli. Vai Giulio, riprendi che metto il timer per la pasta. Ok, intanto ti saluto, ciao Marco, ciao Antonio e ciao Manuele. Sì, sai quanto costa adesso la Mantova Turbo? Sto guardando il computer l'altro giorno, uno la stava vendendo 300 euro, un altro la stava vendendo 425 euro, una cosa da pazzesca, ragazzi. Non è possibile, purtroppo è così, io l'avevo pagata 145, la verità. Per cui, ma la mia è nuova, ma adesso ormai non la piazzerò più, perché ho la Game Master e mi tengo quella, tutto lì. Va bene, ciao Antonio, riprendi. Sì, capa, no, a quel prezzo non gliela comprerei mai, anche perché ci sono quelle antenne della Sirio, cioè, che sono molto buone, sono, che assomiglia tipo la Mantova e vanno alla grande. Cioè, e con metà della spesa ho risolto tutto, ti piglio la Mantova 300 euro, ma non ti innate. Guarda, l'unica Sirio buona è la 827, però costa 140 euro circa, 135 più trasporto, solo di quella ti puoi fidare, tutte le altre vanno in equipo. non lo vuoi certo mettere a confronto con la Mantova, lasciamo perdere. Sì, funzionano, ma funzionano quanto durano. Te l'ha già detto poc'anzi cosa. Prova a chiedere a Antonello di Ussi quanto gli è durata la Sirio, questo da 827. 2 anni mi sembra che l'è durata, forse anche meno. Vabbè, avanti Manuè. Manuè è caduto dalla sedia, va avanti anche tu. Cappa. Mi hanno detto che già ci sono buone della Sirio. C'è un'antenne, la Game Master la fa la Sirio, quella originale. E dicono che è una buona antenna. Ma la Game Master è tutta un'altra cosa, è una canna da pesca, cosa si crede che sia? Questo è un altro discorso, io non sto usando la Game Master adesso. Ma quella non è costruita in alluminio, è una canna da pesca con un pezzo di filo, è una bobina sempre di filo, cosa si crede che sia? Quella per come è fatta costa moltissimo, perché costa 160 euro, se che se vuoi immaginare costa ancora di più. Però ti fanno pagare la progettazione, ti stanno facendo pagare, ma non certo il valore dell'antenna, no? Come valore non ne ha, cosa gusta la canna da becca, ammesso che siano di quelle buone, quello costa, quel tubo lì può costare 30 euro, poi ci saranno sì e no 20 euro di filo, tutto lì, non niente di più, e per la base di pagare 160 euro la Game Master, tanto. Già lo so già. È pure fatta in Italia quella lì, la Sirio, si sa che è un'azienda italiana. Io ci ho avuto la cosa, la Thunder. Cavolo, ma andava bene mi quell'antenna, pumpava me. Ah, tu lasci a perdere, le uniche antenne che vanno bene veramente sono le Sirio, cioè i Game Master, poi c'è la 827 e la Sigma, la Mantova, e boh, tutti gli altri sono tutti antennini, non sono antenne, antennine sono le altre, compresa la cosa, come quella che ha Marco lo stesso, sì funzionano, ma sono sempre antennine sono. Ah, lascia perdere che è quella pompa, quella di Marco, signora antenna, non è cucino, chissà anda, quella è buona, no, non è cucino, l'hanno provata in tanti e va bene come antenna. Poi, ma io mi ricordo tanti anni fa che c'era la Super Lem, te la ricordi? Quella era la Lem, questa è un'altra cosa, quella era la Lem che li faceva, ma ormai non esistono più, quella... oppure guarda, buona era la Stellar era buonissima come antenna, 16 radiali, io ce l'ho avuta, l'ho tenuta quella lì una trentina d'anni. Però non c'è paragone con la, come struttura con la Mantova, non c'è paragone. Tu basta pensare che il primo elemento della Mantova è 4 cm e mezzo di diametro, ti puoi immaginare. A finire andando e calando sono strutturalmente straordinaria, guarda, ma veramente straordinaria. Ossia che la piega al vento. Io l'ho tenuta piazzata qua con 2 anni, una cosa del genere, 2 anni e mezzo, ma ne ha soffiato di bel vento. Sai perché l'ho tolta? L'ho tolta perché i radiali fischiano durante la notte, a me mi dava fastidio. Però come antenna non niente da dire, per me è una delle migliori in assoluto, guarda, se non addirittura la migliore. E pari a quella c'è la Game Master per conto mio. Cappa. È una buona antenna anche la Game Master, ma infatti io sto pensando, solo che me la dovrei far installare più in là, capito? Dovrei mettere le cappe e tutto, non è che l'abbia su cucino come questa, perché questa qui insomma, è appoggiata a quella che io ho alle staffe del condizionatore, gli ho fatto un paio di buchi, ho messo una staffa e un palo alto. È tutto lì, mi sto arrangiando con questa, ma dovendo mettere un'antenna del genere di 7 metri, devo fare tutto un lavoro, devo fare, non è che la pongo così, no, chissà cosa. Sì, la Game Master è 6,90 m, è così anche la Mantova Turbo, è 6,90 m. per cui è lunga. Solo la differenza sta nel peso soprattutto, perché la Game Master peserà se no 2 kg, la Mantova Turbo pesa 4 kg e mezzo, 5 kg, una cosa del genere. Però, come ripeto, come struttura è straordinaria. E ti dirò di più, io l'accordavo anche in 45 metri, perché la Mantova Turbo accorda anche in 45 metri, in 40 metri, in 20 metri, ma se avete accordato le antenne accorda dappertutto, ma accorda e funziona, però no, non a dire accorda e poi non va, perché può accordare anche la Game Master può accordare, però ma al massimo la puoi usare in 10 metri la Game Master, 10-12 metri, ma in certo non in 40 metri, no, la capigli. Ma l'antenna, la Mantova Turbo non la metterei mai, perché un'antenna troppo pesante, oltretutto, primo, secondo, cioè, hanno avuto alcuni problemi con le Mantova Turbo. Sono balle quelli che hanno raccontato, perché la Mantova Turbo non traerà dei problemi. L'unico problema che ti può dare la Mantova Turbo è che si stacca il contatto e non è cortocircuitata, però l'antenna funziona sempre alla grande, anche se non è cortocircuitata. Mi capisci cosa voglio dire? Sì, ho capito, magari però ti alzano le stazionarie e ti dà problemi. Stazionarie 1-1 su tutta la banda della 27, non vende solo stazionarie da Mantova Turbo, sta tranquillo. Sono balle quello che te ne ho raccontato, perché per questa si sentono tante di quelle tronzate, guarda, che addirittura alle volte ti fanno anche vomitare certi discorsi che fanno. Oh, quando si stacca quello che hai detto tu, dà problemi, dà, perché lo so, perché ce l'ha avuto una persona, gli dava problemi, poi l'ha aggiustata, l'ha messa a posto, non gli ha dato mai più problemi. Te lo sto dicendo, l'unico problema è che non è più cortocircuitata, sai cosa vuol dire cortocircuitata? Non è più a massa, cioè lo stilo centrale non è più a massa, però l'antenna funziona alla grande, sempre senza stazionarie, 1-1, non di più, stai tranquillo. Il fatto di essere cortocircuitata è per non avere la corrente elettrostatica all'interno, ecco come te, ma pure l'antenna, anche se è cortocircuitata, se arrivi in un Wimini, stai tranquillo che l'antenna della base a pezzi, ma non l'antenna solamente, la base a pezzi da casa, per cui ripensa un po'. Cappa, e beh, logicamente, se io quando esco dai Nokia sacco tutto, sacco tutto, non ne lascio attaccata, perché anche questa adesso io ce l'ho sul tetto, non è più nel balcone neanche, anche nel balcone è pericolosa, però sul tetto è una cagogia, a vendercela sul tetto no, non mi fido più, capito? Vabbè, è ovvio. Quello, quando arriva quello, stai tranquillo, non c'è antenna che è cortocircuitata che valga, nella maniera più assoluta. No, sono tutti balle. La fanno così, però, ma sai perché la fanno? Perché si può, alle volte ci può essere un temporale e l'antenna magari si ricarica e quando tocchi il PL della tribuna la corsa, per dire, no? Ma niente di più. Quando l'hai staccato, se tocchi il PL sia il polo caldo che il polo freddo, ti può dare la scossa, ma è una scossa, è un attimo, tac, e si scarica all'istante, non ho niente lì. Però stai tranquillo che come antenna si ne affutti di qualsiasi altra antenna, nemmeno la X2000 è così, la Max2000 è così, perché anche quella è una delle migliori antenne in assoluto, però è talmente criticata che la gente l'ha sostituita proprio con la Mantova, poi che sia 1, che sia 5, che sia turbo, quello non ha importanza, però la Mantova è Mantova, stai tranquillo tu, non c'è paragone con nessun'altra antenna si può avvicinare alla Mantova. Vabbè. Dipende Giulio, dipende, magari qualche antenna c'è ma non la conosciamo. La Mantova già è bella pesante, bella strutturata, la verità, e poi ti dura anni. Però più che la Turbo a me piaceva la 1 e la 5. piaceva, come la Turbo, sì, mi piaceva, ma non più di tanto. Sì, beh, la 1 anche, certo la 1, c'è gente che piaceva la 1, c'è gente che piaceva la 5, però quelle ormai non esistono più, anche la Turbo non esiste più, non è più in produzione, oggi se le trovi per fortuna qualche rimanenza di magazzino che è rimasto, c'è qualcuno che la vende, ne approfitta proprio perché non è più in produzione, questa presenta addirittura c'è uno che la vende 302 euro. Bevi, vai da mia, apri, scrivi, Mantova Turbo, scrivi e ti appare subito, ti appare. Un altro addirittura sta vendendo 400, quasi 450 euro, ma dimmi, ma quello è impazzito, solo perché non esiste più, adesso ne approfittano perché essendo un'antenna, per così dire, vintage, non esiste più in produzione, allora tirano sul prezzo, qui ce l'ha. Lo so, però se qualcuno me l'avrebbe regalata probabilmente la 1 l'avrei messa, nuova, se me l'avrebbero regalata probabilmente avrei fatto il lavoro e l'avrei messa, perché quella è un'antenna che mi piace, l'avevo sentita anni fa con un mio amico, capo, con papà, andava forte quell'antenna. La Turbo andava forte lo stesso, ce l'aveva, nel mio palazzo ce l'aveva già sei chi, la buonanima ce l'aveva. Ehi, già lo so che ce l'aveva nel palazzo dove sei tu, già lo so, appunto. La Mantova come cosa, come potenza e come guadagno è la Turbo la più di poco, ma è sempre il massimo. Se poi mi viene a dire che ti piace la 1, sono d'accordo con te, i gusti non si discutono, oppure la 5, i gusti non si discutono, però come qualità di potenza e anche di ricezione, naturalmente sempre mezzo punto in più di guadagno ce l'ha, stai tranquillo, la Mantova Turbo, basta leggere, c'è scritto chiaramente, apri il computer e lo vedi, per cui, va bene, dai, ci sentiamo Antonio, dai, devo attentarmi 5 minuti, dopo rientro, se ci sei ancora, sono pazienza, ti sei salutato comunque, dai, ciao Antonio, dai, devo andare un attimino in un posto dove posso andare solo io, 5 minuti. Ok, dai, ce la risentiamo. Marco, ci sei? Tutta la pasta asciutta. Sempre ottimo e abbondante. Avanti il fischio, chi è? Ebbene, non rispondi, avanti il fischio. Bubu. Miseria. Nessuno è indie. Eccomi, un attimo. Marco, sta suonando il telefono. Sono al telefono, un attimo. Ok, fai, non c'è problema. Ehi Antonio, non fa, dai, mi sono cilindro il telefono. Dai, sentiamo. Cosa? Non ho capito. Aspetta che avevo il volume a zero, dimmi. L'hai detto, non ho capito. Sì, Antonio, che mi sono silenzio al telefono e non posso parlare al momento, dai, ritieniti salutato. Ciao Antonio, buona serata. Ciao, dai, ci risentiamo.